Gentilissimo pubblico, scusate la mia interruzione. Volevo comunicarvi che per voi questa è l'unica possibilità per dirigervi verso la via d'uscita. Chi non è d'accordo con testuali parole è libero di andarsene. Ma Pavia l'hai però! Io vengo proprio da qui, dal posto dei limiti, dove ti dicono no, cambiare qui non si può. Starò lontano da te, ma sempre di pensiero, per poi tornare da re, cambiare quel che si può. Io vengo proprio da qui, dal posto dei limiti, dove ti dicono no, cambiare qui non si può. Starò lontano da te, ma sempre di pensiero, per poi tornare da re, cambiare quel che si può. Amo negoci, a non spiegare, hai cosa un cacciano se non sei io primo. Amo verite, su se ti fatti re in cabana poltrona, ma se di sudditi o state scoprendo solo ora. Vi lamentate chi cosa un cacciano, vi ne fottete in capi problemi, cacci passano buchi a terra del dopoguerra, e si lamentano se pesta una merda. Ora nanna mena, gente che dice ora no, ora no. Ora nanna mena, vogliamo una via d'uscita. Ora nanna mena, gente che dice ora no, ora no. Ora nanna mena, vogliamo una via d'uscita. Dove ti dicono no, cambiare qui non si può. Starò lontano da te, ma sempre ti pensiero, per poi tornare da re, cambiare quel che si può. Pincio ti manza, la sativa convenienza, ma gioca la sana fighe per conci può onorare arianza. Sa tocca l'anza, chi tu copi ciò tu pensa. Ogni testa c'è donale, caspota sentenza. Ave capa i temo ci canno fuitona, giovanno poi ti chiuse sfondamo poitona. Cavalcando l'onda a mezza parola, tra chi parte l'ave, chi ti allonga, chi ha 30 anni torna a scuola. Il fuoco brucia ancora, ce l'ancasse, fra che toccate e te che toccame l'asse. Oggi no, domani può darsi, non toccate cancia ma per non domani te canciasse. Bellezza rara sfigurata, terra mia soffocata, tra la strafottenza e l'omertà, l'indifferenza limita, l'isola che si isola, mare stila sola che mi libera. Ora nanna mena, gente che dice ora no, ora no. Ora nanna mena, vogliamo una via d'uscita. Ora nanna mena, gente che dice ora no, ora no. Ora nanna mena, vogliamo una via d'uscita. Oh picciotto, minchia sei un grande se. Ma scusa Vito, ma perché hai usato questo linguaggio, come si dice, così poco colorito, così volgare? Vai staso, diciamo. Ma io non credo di essere stato così tanto volgare, Saraci. Il mio è soltanto un modo ironico per spiegare che le cose non cambiano. E spesso e volentieri per colpa sempre di qualcuno che non presta interesse e rimanda a dopo qualcosa che potrebbe cambiare subito. E per questo poi noi terroni emigriamo. Vabbè, vabbè, capivo. Amone anche anaca. Che mi facessi la testa quando ho una cocuzza.